si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, orario della domenica, 8:30, saremo insieme fino alle 11:00, vi terremo compagnia con i giornali, oggi in edicola, la rassegna stampa, ma poi anche con approfondimenti e le nostre buone notizie. Cominciamo subito, intanto, per dare il là a questa giornata, con una piccola buona notizia. Milano, tagliati i pass per la sosta, anche se i nomi dei titolari restano segreti. Le nuove regole di Palazzo Marino riduce il numero dei permessi in circolazione. Negli elenchi viene indicata la categoria dei possessori. In tutto ne sono stati concessi 200 in meno rispetto allo scorso anno. Politici in calo. E questa è una vecchia vicenda, un piccolo segnale, insomma. Ma basta con questi anche piccoli, piccolissimi privilegi, ma che poi tanto piccoli non sono. Uno si trova sulla corsia in preferenziale con le auto blu davanti a bloccare gli autobus e le ambulanze e non va bene. Questa era una piccola notizia per iniziare. Andiamo sui giornali di oggi, che sono insomma in gran parte ancora dedicati alle ricadute di quello che è successo a Lampedusa con i sopravvissuti indagati per avere aiutato durante il naufragio gli altri a salvarsi la vita. Una cosa assurda, incredibile. Poi c'è la decisione del Cavaliere e dei suoi avvocati, di Berlusconi, di ricorrere all'affidamento ai servizi sociali. Il Corriere della Sera scrive così: sfida per la guida del PDL, Fitto ad Alfano, azzerare le cariche, voglio il congresso. C'è un'intervista a Fitto che attacca abbastanza frontalmente, la leggeremo tra poco, Alfano. Non so quanto conti Fitto nel PDL, però in questo momento è il lealista berlusconiano che si espone di più. Caso Berlusconi, l'avvocato Coppi in settimana la richiesta per l'affidamento ai servizi sociali. Ma dicevamo di Lampedusa e della Bossi-Fini, piano per cambiare la legge Bossi-Fini. Iniziativa parlamentare, il governo ci pensa, sono tre le proposte, scrive il Corriere, per il governo Letta. La prima è abolire il reato di clandestinità, basta dare la via preferenziale per un disegno di legge già esistente. La seconda, spostare la richiesta di asilo nei paesi di transito, prima della partenza. Infine sarà l'ONU a decidere chi ha diritto all'asilo politico. C'è sulla prima pagina del Corriere anche la notizia di Vizzani, stacco la chiave, il regista dell'impegno civile suicida come Monicelli, aveva 91 anni, il debutto nel 1951 con Achtung Banditi, l'ultimo suo libro Il Giro del Mondo in 35 mm è dell'ottobre del 2012. Addio a Carlo Lizzani, da 60 anni un protagonista del cinema, il regista si è ucciso lanciandosi dal terzo piano della sua casa di Roma, ha lasciato un biglietto alla famiglia, stacco la chiave. Tra poco vedremo l'intervista, leggeremo un pezzetto dell'intervista di Fitto che se la prende con Alfani. Con Alfano. C'è un'altra intervista oggi sulla stampa al sindaco di Firenze Matteo Renzi, che invece si rivolge a Letta, e quindi interviste gemelle sui giornali oggi da questo punto di vista per quanto riguarda la politica. La prima pagina di Repubblica, migranti, la Francia chiede un vertice europeo, Letta valuterò le modifiche alla Bossi-Fini, indagati come dicevamo tutti i superstiti della strage di Lampedusa. Andiamo sulla prima pagina del giornale, facciamo un po' in su in giù rispetto agli argomenti e torniamo a Berlusconi, ai servizi sociali, democrazia ferita, scrive il giornale, il leader di Forza Italia rifiuta il bavaglio, dice no agli arresti domiciliari. Intanto arriva un'altra mazzata sulla casa, l'ecotassa provinciale, scrive Vittorio Feltri. La solitudine di un leader tradito e ferito. Alcuni giornali parlano di 25 luglio del Cavaliere, insomma via discorrendo sull'isolamento progressivo che starebbe circondando l'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Quando un uomo, dice Feltri, cade in disgrazia per vari motivi, i suoi amici sono meno amici, cambiano espressione, qualcuno diventa antipatico, altri fastidiosi, quelli poi che si offrono volontari per dargli una mano senza sapere come sarebbero da prendere a pedate. Suppongo che il Cavaliere abbia una gran voglia di farlo, scrive Feltri sul giornale. Torniamo invece alla vicenda di Lampedusa e andiamo sui giornali di sinistra. Il manifesto, il reato di vivere, scampati al mare alle fiamme, ma non alla Bossi Fini. Ora i sopravvissuti al naufragio di Lampedusa sono indagati per immigrazione clandestina. La procura è un atto dovuto, ma la polemica divampa. Ci sono anche le dichiarazioni della Boldrini che dice reprimere non serve, bisogna cambiare le leggi. Sul fondo del mare ancora 252 cadaveri. E poi ci sono sulla prima pagina del Fatto Quotidiano le domande di Antonio Padellaro. Il protocollo dell'isola dei conigli, scrive, perché si è parlato del fatto che alcuni soccorritori sono stati interrotti mentre soccorrevano appunto i superstiti della tragedia, perché in attesa delle regole del protocollo. Allora scrive Padellaro: ma quali imperdonabili colpe hanno i poveri morti di Lampedusa, abbandonati, bruciati e annegati? Che dire del ministro Alfano, che unendosi alla vergogna del Papa ne tradisce il pensiero e lesto se ne appropria, avendo al contrario Francesco rivolto il grido sdegnato anche e soprattutto a quegli uomini di governo che potevano fare e non hanno fatto. Cosa dunque dobbiamo pensare quando la Presidente della Camera ci dice che nulla dovrà essere più come prima, visto che prima c'era lei che per conto dell'ONU si occupava a tempo pieno di quei rifugiati di cui ora non risulta che si occupi più nessuno? Quel lutto che deve cambiare, quel tutto, scusate, che deve cambiare, scrive Padellaro, perché nulla sia più come prima. Come potrà farlo in presenza di leggi infami e imbecilli come quella Bossi-Fini, che prevede l'accusa di favoreggiamento anche per chi soccorre in mare persone stremate che stanno per morire? Le domande che sono rivolte un po' a tutti, come vedete, non soltanto a chi porta avanti una politica di repressione sull'immigrazione come la Bossi-Fini, ma anche alla Boldrini, che è andata anche lei, dice Padellaro, in sostanza a fare il suo show, ma fino a ieri si occupava proprio di questo. E che cosa ha fatto per evitare che tragedie così tornassero a ripetersi? Andiamo a vedere brevemente, prima di chiudere questa prima parte di rassegna, i titoli, poi vedremo gli articoli più avanti. Dicevamo, l'intervista a Renzi di Massimo Gramellini sulla Stampa. Renzi: con Letta ho chiarito, lui più forte con me segretario. L'intervista al candidato alla leadership del Partito Democratico: il Cavaliere mi fa rabbia, ha cambiato tutto ma non la politica. Sono ambizioso ma non smanio, dice Renzi, per andare al voto. Se Enrico durerà ancora 10 anni farò dell'altro, allora avrò l'età che lui ha adesso. Il mio, dice Matteo Renzi, non sarà mai un partito con la matita rossa per fare le pulci al governo. Direi che diamo un'occhiata alla prima pagina del Messaggero per dare questa notizia qua. C'è solo la Roma, 2 gol di Totti e 1 di Florenzi, a San Siro 3-0 contro l'Inter, un grande momento per la Roma di Rudy Garcia e di Totti. Gli altri titoli degli altri giornali li vediamo più avanti, così come daremo un'occhiata anche ad alcuni articoli, approfondimenti, eccetera. Adesso diamo la linea al traffico, torniamo tra un attimo con il Domenicale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Restiamo in edicola, perché di tutto quello che c'è oggi in edicola, nei giornali di oggi, una cosa soprattutto non dovete assolutamente perdervi, ed è il Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, come ogni settimana, cucinato sapientemente dalle mani del suo responsabile Armando Massarenti, che è qua con noi. Buongiorno Armando. Buongiorno. Ora voi non lo vedete perché alla radio, giustamente, però chi lo conosce o comunque chi lo ha già sentito alla radio sembra una persona normale, ma in realtà Armando Massarenti è una mente nella quale si intrecciano traiettorie culturali e non solo complicatissime ma irrinunciabili. Tanto per dirne una, voi che siete magari a casa, che state facendo la barba e pensate al film che avete visto ieri sera al cinema, sicuramente un orrido cinepanettone, o che avete il libro di Fabio Volo sul comodino, ecco, sappiate che c'è anche dell'altro. La cultura è anche un'altra cosa, quella cosa che vi può aiutare a rispondere a domande tipo chi siamo, dove stiamo andando. Ecco, io ho voluto contestualizzare così, questo è il primo appuntamento in Si può fare con Armando Massarenti. Armando, prima di tutto, il primo appuntamento di oggi per scoprire il Domenicale lo introduciamo così. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Parliamo di Edith Piaf perché c'è un anniversario, l'anniversario della sua morte, Armando. Sì, ecco, tu dicevi giustamente la cultura è anche un'altra cosa, ma direi che è soprattutto un'altra cosa, ma che non ci impedisce di ascoltare la Vie en Rose di Edith Piaf e di ascoltare della buona musica, che non era musica considerata coltissima, ma era però rappresentava un'icona per quel tempo. Edith Piaf è un'icona della Francia del Novecento e in parte di un periodo molto particolare, quello. Lei è nata nel 1915 a Belleville, e in un quartiere molto povero, diventa l'icona dell'esistenzialismo, cioè di una corrente filosofica molto molto importante. E però ultimamente sono uscite alcune biografie, alcuni sia dal punto di vista cinematografico sia dal punto di vista della scrittura, alcuni libri che sporcano un pochino questo mito. E qui si può già aprire una riflessione, no? Quanto noi di Edith Piaf, che appunto è un'icona, peraltro moriva esattamente 50 anni fa, una delle ragioni per cui ne parliamo è anche questa, gli anniversari sono così delle scuse per parlare delle cose, ma qui c'è anche molta sostanza, e è un'icona, muore 50 anni fa, nello stesso giorno in cui moriva un grandissimo personaggio, Jean Cocteau, un altro grande scrittore francese, che pure la amava molto. Non a caso, tra l'altro, c'è un'opera importante, si chiama La voce umana di Cocteau, che noi conosciamo in italiano perché la Magnani ha fatto una delle sue prove migliori dal punto di vista attoriale. Ecco, ma tutto ciò si intreccia, insomma, in una serie di discorsi interessanti, ma anche cosa facciamo noi di questi miti quando scopriamo, ecco, ce lo racconta facciamo? Riccardo Piaggio nel suo pezzo, che scopriamo le sue frequentazioni. Scopriamo che ci sono delle ombre e cosa cambia qualcosa nel giudizio, secondo voi del Domenicale, secondo anche Armando Massaretti, secondo te? No, diciamo, questo apre una riflessione interessante, non solo sulla cultura alta, la cultura bassa, l'esistenzialismo, le icone del Novecento, anche Sartre, anche Simone de Beauvoir erano delle icone del Novecento, spesso avevano luci e ombre, gli stessi filosofi hanno luci e ombre, non sempre, diciamo, a volte predicano bene, non razzano altrettanto, cioè, bene, dobbiamo lo stesso un cantante, po' così, però sommato. Cosa ci rimane? Il mito lo stesso, che più o meno sporcato, ci rimane questa voce meravigliosa, ci rimane qualche cosa che ci riporta a quei tempi e sopravvive nel tempo e ci dà l'idea di quanto anche un po' siamo romantici, perché finiamo per perdonare i nostri miti anche delle marachelle, delle cose a volte che magari molto invece ad altri pesanti non perdoniamo. Poi dicono che siamo nazionalisti noi italiani, non è vero, infatti non lo siamo, perché continuiamo a parlare di Francia e di un racconto inedito di Flaubert che pubblicate, uno scrittore importantissimo, tutti a scuola abbiamo studiato Flaubert. Che racconto è questo e cosa rappresenta per la letteratura mondiale Flaubert? Qui abbiamo fatto un'altra trasgressione, cioè abbiamo pubblicato qualcosa che Flaubert non avrebbe mai voluto vedere stampato, cioè un racconto che lui ha scritto a 14 anni, cioè in fondo uno dei suoi primissimi racconti. Questi scritti giovanili però sono molto interessanti, come ci racconta Chiara Pasetti presentando appunto il racconto, perché sono proprio la fucina, sono la vocazione di uno scrittore che incomincia a realizzarsi, sono pieni di cose ingenue, ma però sono pieni anche di temi che poi verranno sviluppati nell'opera che tutti conoscono, la Madame Bovary. Però noi abbiamo questa abitudine di pubblicare un racconto intero ogni settimana perché vogliamo fare sì delle riflessioni sulla cultura alta o bassa, anche qui non dobbiamo mitizzare troppo la cultura alta, ma dobbiamo trattare in maniera sempre seria e alta anche la cultura più popolare, ma soprattutto vogliamo non soltanto dare una ricchezza di riflessioni, e lo vedremo tra poco con l'ospite di oggi, cioè con un grande filosofo italiano, cioè Remo Bodei, ma vogliamo dare anche una possibilità di fruire direttamente, quindi c'è una parte di intrattenimento molto importante, ecco, che è quella della lettura diretta di testi letterari, e quindi, insomma, e soprattutto del racconto. Oggi Flaubert, in edicola, Flaubert sul Domenicale, non è poco. Ha introdotto però il nostro ospite, perché diciamo il focus, si dice così, o l'approfondimento importante del Domenicale di oggi è dedicato, anzi è scritto proprio da un filosofo italiano, Remo Bodei, che tra l'altro abbiamo in collegamento. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica. Bodei, gliela faccio io una domanda, da quello che ho capito di quello che lei ha scritto. Insomma, lei parla del fatto che ognuno di noi in qualche modo sfugge alle ristrettezze della sua vita con l'immaginazione, che questo però può avere anche delle controindicazioni. Io non so se lei vuole sfruttare questo lancio per parlare di quello che scrive oggi sul Domenicale oppure no. Intanto, buongiorno di nuovo, prego. Buongiorno. Io mi sono fermato molto in questo libro sui modelli, cioè come si è formata l'elite europea, ad esempio attraverso Plutarco, le vite parallele, sia in bene che in male, cioè sia mostrando gli esempi di virtù. La rivoluzione francese sarebbe inconcepibile, ad esempio, senza i modelli plutarchei seguiti da Robespierre e da Saint-Just, sia in termini negativi, mostrando le forme di tirannide. Poi ci sono i problemi che ciascuno di noi affronta, ci sono degli uomini infami, cioè privi di fame, di fama, come sono la maggior parte di noi, che dopo due o tre generazioni siamo dimenticati persino dai parenti. Ma oggi il problema è che c'è una voglia, almeno nella nostra civiltà occidentale, ma anche altrove, la voglia di essere presenti, di partecipare indirettamente alle vite altrui, se non si spiegherebbe l'importanza che hanno certi giornali che parlano di principesse, oppure la partecipazione emotiva alla scomparsa di Lady Diana, oppure questi personaggi che non contano nulla, non fanno nulla per la collettività, non sono una Britney Spears che è osannata e oggetto di gossip. Quindi siamo in un mondo in cui l'idea di contare qualche cosa è importante. In questo senso, allora, l'immaginazione ha degli aspetti che possono essere di elevazione dell'individuo, ma anche di forme di dissipazione, di perdita di sé. Naturalmente non bisogna spinozianamente né ridere né piangere di fronte a questi fenomeni che sono appunto quelli di adorare le celebrità, perché questo succede anche perché non si danno dei modelli più alti e quindi ci si contenta di stare a ruminare nelle parti più basse. E noi invece, Bodei, noi invece ci proviamo a dare degli esempi più alti, senza volerla tirare in mezzo, però Remo Bodei è un esempio. Armando Massalenti, questo era Bodei, note radiofoniche. Se invece volete andarlo a leggere, il suo pensiero fissato su carta, nero su bianco, andate a comprare il Domenicale oggi in edicola. Il curatore Armando Massalenti qua con noi per questo appuntamento di oggi. Armando, noi ci salutiamo e direi, perché ringraziamo Bodei per essere stato con noi, un ospite importante, un vostro collaboratore fisso. Grazie. Che dire, ci sentiamo domenica prossima. Alla prossima domenica, grazie. E invece con voi di Si può fare ci ritroviamo tra poco, dopo il giornale radio. Buongiorno a tutti, sono Sergio da Padova. Sapete che ci sono circa 600 milioni di ore che noi italiani perdiamo ogni anno, 600 milioni di ore ai semafori, considerando circa 3 milioni di automobilisti, i quali sono costretti a perdere fra i 15 e i 30 minuti al giorno in semafori regolati male. Un semplice concetto: quando un semaforo vede una fila enorme di vetture da una parte del semaforo e della via laterale vede poche decine o addirittura una decina di vetture ferme al semaforo, vuol dire che il semaforo è regolato in maniera assolutamente scorretta. E quindi la prima cosa è quello di riuscire a convincere le amministrazioni a rivedere quelli che sono i tempi semaforici. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Vi do subito anche i nostri contatti, perché tra poco si potrà intervenire in diretta chiamando al numero verde 800 24 00 24. Poi potete interagire con noi su Facebook, si può fare trattino Radio 24. L'account su Twitter invece è chiocciola si può fare 24. Il mio è chiocciola Ale Maurizi. Riprendiamo i giornali di oggi in edicola con alcune interviste interessanti. Avevamo detto Renzi, ma c'è anche Fitto che se la prende con Alfani, c'è il segretario del PD e con Alfano, e daglie a dire Alfani, con Epifani che parla sulle pagine di Repubblica. Ma vediamo l'intervista di Renzi, il sindaco di Firenze, a Massimo Gramellini sulla Stampa. Allora, con me segretario del PD, Letta sarà più forte, sono contro i poteri forti e molto ambizioso, questo è il sottotitolo. Gramellini parte da quel famoso famosa partecipazione di Renzi alla trasmissione di Mike Buongiorno. Come mai a vent'anni partecipò alla ruota della fortuna? Adoro i giochi di parole. Ho vinto 4 partite, alla quinta avrei guadagnato 50 milioni di lire e sarei andata alla ruota d'oro. Invece sbagliai l'ultima definizione, un mare di neve, dissi, invece di un mare di navi. Mi ha fregato una vocale, dice Gramellini. Arriva sempre a un passo dalla vittoria. E poi fu la mia fortuna, era il febbraio del 94, la puntata dopo Mike fece il famoso appello elettorale a favore di Berlusconi. Fossi stato lì oggi qualcuno direbbe perché Renzi non intervenne? Poi gli chiede Gramellini, siamo al 25 luglio del Cavaliere? Sì, siamo all'epilogo, lungo, ineludibile, Berlusconi mi fa rabbia perché ha cambiato il calcio, la TV, l'edilizia, ma non la politica, non solo non ha fatto le cose che volevamo noi, ma nemmeno quelle che voleva lui. Torniamo a Letta, gli dice Gramellini, gli ho detto che se diventassi segretario del PD non mi chiederei ogni giorno cosa fare per danneggiare lui e Alfano, il mio non sarebbe un PD con la matita rossa e blu per fare le pulci al governo. E poi l'incontro con la Merkel di Renzi che ha fatto innervosire quelli del PD. Ma no, mi aveva cercato lei, dice Renzi, dopo aver letto la mia intervista. Ho preso un volo privato, il colloquio era previsto alle 6.30, alle 7.30, mi ha ricevuto alle 6.28, alle 7.28, ha guardato l'orologio e mi ha congedato. Ama l'Italia, ci sta aspettando, dice che abbiamo un grande leader, napolitano, e mi ha parlato bene anche di Enrico, questo Renzi, a proposito della Merkel. Gli chiede Gramellini, in Germania avrebbe votato per lei? Da dirigente politico avrei votato SPD per senso di appartenenza, da cittadino non so, quella donna mi ha colpito, anche se nemmeno lei sta affrontando il vero tema, cambiare l'Europa, perché è l'Europa in crisi, non un solo paese. Poi, si può tagliare la spesa senza licenziare i dipendenti pubblici? Fassina dice di no, risposta di Renzi. Fassina non è cattivo, ma non ha mai amministrato nulla, non sa di cosa parla. Ormai lui dichiara a piacere su tutto. Lasciate fare a noi amministratori. Certo, va aumentata la produttività. Il forestale della Calabria deve sapere che con me non verrà licenziato, ma dovrà lavorare moltissimo. Ancora Gramellini a Renzi, il suo PD sarebbe a favore della patrimoniale, risposta un po' furbetta, molti amici imprenditori si dicono pronti a pagarla, ma prima chiedono che la politica dia il buon esempio. Ancora, adesso De Mita dice Renzi è un torrente che non diventerà mai fiume, Scalfari ha concordato con lui aggiungendo che il fiume è Letta, risposta simpatica di Renzi. Sono contento di non essere oggetto di una previsione positiva della coppia De Mita-Scalfari, non ne hanno mai azzeccata una. La accusano di essere inconsistente. Ha visto l'imitazione di Crozza? I Renzini, 30% di Baricco, 40% di niente, in un cuore di cioccolato. Spero che Baricco non quereli, dice Renzi. Ma il fatto di dire frasi secche, e qui secondo me risponde bene, giustamente, non significa che dietro non ci sia l'elaborazione di un pensiero. Certo, ha ragione. Sa comunicare, ma questo non vuol dire che sia scemo. Come si immagina lei da segretario? Dice ancora Gramellini. Ecco la risposta: a piedi tra la gente, non in auto con il lampeggiante. Un segretario deve farsi vedere in giro, è in campagna elettorale permanente, dice Gramellini, e ne sarà entusiasta Letta. continuerà a fare il sindaco, il segretario non deve mica passare il tempo barricato in sede a gestire incarichi e spartire poltrone, e questa è bellissima. Provo avvilimento quando vado in Rai e qualche dirigente mi dice: io sto con te, ma chi se ne frega con chi stai, Renzi. Pensando appunto al funzionario Rai che quando lo incontra diciamo rivela la sua appartenenza al partito renziano. C'è anche l'intervista di Epifani su Repubblica, velocemente, il segretario del PD. Alfano faccia i gruppi autonomi o il governo torna nel pantano. Letta, ora giù le tasse sul lavoro. Poi dice il segretario del PD: Berlusconi ha perso, per il Partito Democratico i sondaggi sono eccellenti, ma dove prendere i soldi per abbassare le tasse sul lavoro che stanno a cuore al PD? Domanda l'intervistatore a Epifani. Bisogna innanzitutto allentare il patto di stabilità dei comuni, è l'unica misura che consente di mettere in circolo denaro in tempi brevi. E nella pancia dei comuni, dice Epifani, ci sono le uniche risorse pubbliche disponibili, se ne parla sempre, ma io chiedo formalmente che questo problema venga risolto. Una presa di posizione che farà contenti gli amministratori locali, i comuni che da tempo chiedono, quelli virtuosi che hanno risparmiato e che potrebbero spendere e investire, di farlo. Invece il patto di stabilità glielo vieta. D'altra parte il patto di stabilità, lo sappiamo, è servito per tenere anche i conti in ordine. Passiamo sull'altra sponda e restiamo sempre a parlare di politica. L'intervista di Fitto il Corriere della Sera. Azzerare le cariche, voglio il congresso, è sfida per la guida del PDL. Ma chi siete voi? Domanda l'intervistatrice Paola Di Caro a Fitto. Siamo in tanti, abbiamo deciso di chiamarci lealisti, siamo quelli che non si limitano solo ad inviare comunicati stampa quando viene commesso un gravissimo atto come in giunta al Senato venerdì. Siamo quelli che si rifiutano di accettare che da 20 anni di nostra storia, di passione, di idee e di coinvolgimento di milioni di italiani attorno a Berlusconi possano essere raccontati come un romanzo criminale. Insomma, siamo quelli che sulla questione giudiziaria sono stretti attorno a Berlusconi, questo dico io. Ancora Alfano, siamo anche quelli che sostengono con forza la battaglia contro l'oppressione fiscale. Poi su Alfano: io non condivido la sua azione politica che rischia di costruire un centro politicamente e culturalmente subalterno alla sinistra. Ma dove vede questi cedimenti alla sinistra, al centro? Domanda il Corriere. Per esempio sul tema delle riforme istituzionali concordate con il PD è sparito dall'agenda il tema della riforma della giustizia, e daglie, è sempre questo il punto, nonostante anche i recenti richiami dell'Europa. Perché, si chiede Fitto, e questo insomma è, diciamo, il falco che non t'aspetti dopo che sono stati bruciati la Santanchè, Verdini, insomma quelli che avevano sostenuto la linea del falco del governo Letta. Adesso c'è una seconda linea di falchi tipo Fitto che sfidano un po' Alfano su questo terreno dei prossimi mesi di politica di centrodestra. Sulla vicenda di Lampedusa, dalla prima pagina di Avvenire invece c'è un titolo sull'Europa e sulla Francia che altri giornali hanno messo in rilievo in maniera meno importante. Un dovere europeo, Parigi con Roma, vertice europeo per l'emergenza profughi, Lampedusa, indagati di superstiti. Andiamo a vedere dentro Avvenire. Francia e Italia alleate, urgente una riunione dell'Unione Europea. Martedì il dossier immigrazione sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri degli Interni. Il premier francese Ayrault dice: la compassione non è sufficiente, ora servono risposte. Leggiamo alcune parole del presidente del Consiglio francese, il premier Ayrault, che dice: al di là della tragedia è importante che i responsabili politici europei ne parlino velocemente, insieme. Sta a loro riunirsi per trovare la risposta giusta. La compassione non basta. Io credo che sia importante che l'Europa si preoccupi di questa situazione così drammatica, dice Ayrault. Un appello che mostra come anche oltre Alpe si ritenga necessario intervenire con nuove misure su quella che appare chiaramente come un'emergenza europea. È mia ferma intenzione andare a Lampedusa nel corso della mia visita ufficiale in Italia, si allunga ancora il premier francese, e via discorrendo. Insomma, questo è il tema. Ci sarà, insomma, la Francia è vicina all'Italia su questo tema qua dell'immigrazione. Sempre su questo capitolo, su Corriere, perché non mancano le polemiche. Allora, prima di tutto, il titolo dell'articolo è: tutti sopravvissuti al naufragio indagati per il reato di clandestinità. La procura chiarisce, è un atto dovuto, però insomma resta l'assurdità di questa cosa. Sicuramente il centro-sinistra contro la Bossi-Fini, il presidente del Senato dice inumana conseguenza, in mare 252 corpi. Però è lite sui tempi e le procedure dei soccorsi. Il comandante Marini si difende, l'allarme radio è arrivata alle 7, le nostre motovedette erano sul posto 17 minuti dopo, i volontari però dicono potevamo salvarne altri, la capitaneria invece ribadisce è stato fatto il massimo. Sentiamo un pezzo del reportage di Felice Cavallaro da Lampedusa, che dice: non si placa la spinosa polemica su come sia possibile che nessuno si accorga di un natante con 500 persone a bordo avvicinatosi alla punta di Lampedusa con un vuoto di tre interminabili e terrificanti ore. No, non è solo una signora infuriata come Loredana Emanuele, lampedusana per amore e compagna di un pescatore, a puntare il dito. Dice questa signora: i radar che hanno montato a Ponente, lì alla Loran, servono solo a farci venire i tumori, dice questa signora qua. Però c'è anche il presidente della Sicilia, il governatore Crocetta, che rincara: ci dicano perché in questo Mediterraneo superbattuto da marine e forze militari nessuno ha visto il barcone né a 600 metri né a un miglio, 10, 30, 50 miglia prima. A cosa servono tutti questi apparati se poi dobbiamo piangere le vite di questi 300 poveri cristi? Ancora con il reportage di Cavallaro da Lampedusa, che cita queste otto persone, queste quattro coppie che si trovavano per caso di notte e all'alba, insomma, nelle vicinanze di dove poi è naufragato il barcone, e che poi sono intervenute. Dice Linda: eravamo pronti a trasbordarli sul loro mezzo per andare a salvarne altri, ma i marinai immobili ci dicevano di aspettare il protocollo. E questo è quello che è già stato detto anche ieri su Repubblica, c'era la stessa intervista ad un altro di questi testimoni. Che cos'è il protocollo mentre la gente muore? Poi prosegue il giornalista dicendo: bisogna andare alla guardia costiera di Lampedusa per capire come provi ad arginare questi interrogativi. Il comandante generale della Capitaneria Felice Angrisano dice, virgolettato: polemica assurda, è stata immediata la nostra mobilitazione. Il portavoce, il comandante Marini: le nostre motovedette erano tornate alle 4 del mattino dopo aver salvato 463 persone. Alle 7 del mattino, non prima, scatta l'allarme via radio. Il tempo di approntamento per le motovedette è di 30 minuti, ma giovedì mattina l'equipaggio è riuscito a far partire la prima motovedetta alle 7.14. Sì, 14 minuti dopo, alle 7.17 eravamo già sul punto. Quindi questa è l'autodifesa della capitaneria di porto, che insomma probabilmente fa quel che può. Forse più interessante sarebbe capire i radar, i famosi radar che dovrebbero servire ad anticipare queste cose, non arrivare all'ultimo minuto, ma ad accompagnare questi barconi per tempo. Non so se abbiamo ancora, dobbiamo chiudere con la rassegna stampa, se c'è qualche altra segnalazione. Ecco, questo piano per cambiare la legge Bossi-Fini, restiamo sull'argomento. Tre proposte per il governo Letta, questa sulla prima pagina sempre del Corriere. La prima è abolire il reato di clandestinità, basta dare la via preferenziale per un disegno di legge già esistente. La seconda, spostare la richiesta di asilo nei paesi di transito, prima cioè della partenza. E infine, quello a cui starebbe lavorando il Parlamento, sarebbe poi l'ONU a decidere chi ha diritto all'asilo politico. Ok, 800 24 00 24, su questi argomenti potete intervenire in diretta, potete anche contattarci su Facebook, si può fare Tattino 24, oppure su Twitter, @ si può fare 24. Adesso facciamo una brevissima pausa, torniamo tra un attimo. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Fare. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco cominceremo a sentire anche i vostri interventi. Salutiamo intanto il direttore del Giorno, Giancarlo Mazzucca. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. buongiorno a voi. Allora, con te vogliamo fare un po' di, così, di riepilogo di questa settimana. Ci sono state tante notizie, è importante, è stata veramente una settimana a tamburo. Una settimana mostra, una settimana assolutamente fuori dal normale. Fuori dal normale, cose pazzesche, il governo che sembrava cadere invece poi ha resistito, la giunta, sì. Berlusconi, quindi sviluppi, falchi, le colombe, poi purtroppo la cosa di Lampedusa. Purtroppo una cosa così non la vedevo tutto il tempo, una settimana così tremenda. Senti, voglio partire, scusami Giancarlo, dal tuo editoriale di oggi, perché tu dici su Lampedusa una frase forte: abbiamo toccato l'anno zero dell'umanità addirittura. Sì, in effetti purtroppo quello che ha detto il Papa Francesco l'altro giorno parlando di vergogna per Lampedusa aveva perfettamente ragione, perché sul discorso degli immigrati siamo veramente all'anno zero, in quanto da anni ormai ci parliamo, rimbalziamo le colpe, le responsabilità con l'Europa, tra Italia e Europa, misure che devono essere prese e non sono prese. Situazione d'emergenza sempre più grave e siamo arrivati a centinaia di morti, con quasi una specie di scetticismo assoluto, nel senso che abbiamo fatto benissimo la giornata di lutto nazionale, il ministro dell'Interno Alfano ha parlato del proposto Lampedusa per il premio Nobel per la pace, ecco, dopodiché è passato l'emergenza, diciamo così, della situazione, ritorneremo alle solite battaglie e alle solite vicende. Tra l'altro la cosa paradossale è venuta fuori ieri, che sì, addirittura i sopravvissuti sono stati indagati, anche se per ufficio, perché è un atto dovuto, sono stati indagati per immigrazione clandestina. Ecco, questo dà l'idea di come siamo veramente in una situazione di allucinante, ci continuiamo a parlare, continuiamo a discutere, continuiamo a scrivere, ma siamo veramente all'anno zero. Ecco, ma secondo te questo tema del tutti si sono attaccati all'Europa, Alfano, Letta, ma insomma un po' tutti, anche Napolitano se ne parla da tempo, oggi i giornali citano la presa di posizione francese che sembra venirci dietro su questo, dire bisognerà parlarne, sicuramente il premier francese Ayrault non è rimasto indifferente rispetto a quello che è accaduto a Lampedusa. Pensi che questa possa essere una chiave veramente, oppure come invece diceva qualcuno sui giornali, l'Italia ha già avuto fondi dall'Europa, i pattugliamenti ci sono, c'è qualcosa che non funziona anche come proprio noi gestiamo? Pensa alle polemiche sul protocollo da rispettare per i soccorritori che avrebbero, dicono, potuto salvare più vittime proprio l'altra notte a Lampedusa, che ne pensi? Noi non riusciamo a battere il pugno sul tavolo, perché io ricordo di aver fatto un'intervista al ministro Maroni, che era appunto ministro dell'interno, il quale 2 anni fa diceva le stesse cose, bisognava anche appunto rivolgersi all'Europa, bisognava avere più peso a Bruxelles, ecco, quelle cose che disse lui 2 anni fa sono identiche adesso, noi non riusciamo ad avere, a coinvolgere l'Europa, e l'Europa che in altre occasioni, per altri problemi, ci chiama responsabili sul problema degli immigrati, sembra quasi lavarsi le mani. Siamo noi i diretti, i primi, praticamente ci facciamo noi al Mediterraneo, quindi siamo noi che dobbiamo affrontare l'emergenza più degli altri paesi, e quindi sono responsabilità soprattutto nostre. Ora, a questo punto, di fronte a una situazione così grave, dobbiamo veramente avere voce in capitolo, non possiamo lasciare ancora una volta che l'Europa vada avanti per la propria strada. Però resta il fatto, e lo ribadisco, che l'Europa da sola non risolve il problema se non ci mettiamo anche noi, cambiando magari la legge Bossi-Fini, cercando di cambiare la situazione. Adesso abbiamo questo ministro dell'immigrazione, Kyenge, che per certi versi può essere assolutamente considerata un po' avversaria da alcuni esponenti della Lega, eccetera, che però conosce bene i problemi, e quindi diamogli la possibilità anche lei di affrontare e di arrivare a un cambiamento della legge Bossi-Fini. Giancarlo Mazzucca, pensiamo, adesso parliamo di politica, pensiamo al ritratto della situazione fatto dalla Santanchè, dai falchi del PDL nelle scorse settimane. Berlusconi non andrà ai domiciliari, andrà in galera, disse la Santanchè, poi cadrà il governo Letta, basta, è finita, eccetera, eccetera. Poi adesso siamo col governo Letta in sella e Berlusconi votato in giunta la decadenza, poi la palla passerà al Senato, che adesso scopriamo ieri ai suoi avvocati andrà ai servizi sociali, cioè passa sempre la linea morbida. Poi che è successo in queste settimane? La linea dura ha perso sempre, questo è il risultato, perché quando c'è stato la settimana scorsa la linea dura del PDL dei Falchi, i quali appunto hanno chiesto le dimissioni dei ministri, evidentemente non avevano fatto bene i conti, avevano pensato che ancora una volta di fronte ai diktat del vertice da Arcore tutti si sarebbero adeguati. In effetti sembrava così, perché in un primo momento Alfano, che non era neanche presente a quel vertice famoso di Arcore, aveva dato appunto a sua volta l'ordine ai ministri del PDL di dimettersi. Poi nel giro di 24 ore la situazione è cambiata, anche Alfano, visto appunto i nuovi chiari di luna, ha cambiato posizione e per la prima volta dopo vari mesi, dopo anni direi, forse per la prima volta in assoluto, Berlusconi si è trovato in difficoltà, tant'è vero che alla fine, proprio per evitare l'accelerazione del partito e la scissione dei moderati, ha dovuto appunto cambiare opinione e dare la fiducia al governo Letta, che a mio parere è stato provvidenziale, perché in questo momento una crisi di governo avrebbe avuto effetti deleteri per l'Italia, per tutto il paese, in un momento di grave crisi economica e di recessione che continua a incalzare nonostante i segnali di ripresa che arrivano da altri paesi dell'Europa e dagli Stati Uniti. Ecco, quindi c'è stata una sconfitta, diciamo così, dell'ala dura, e questa sconfitta si vede anche ora di fronte alle dichiarazioni degli avvocati di Berlusconi, che il Cavaliere ricorrerà ai servizi sociali. Fino all'altro giorno la stessa Santanchè aveva detto che appunto i servizi sociali sarebbero stati respinti dal Cavaliere, invece ora è tornato a più miti consigli. Quindi mi sembra che questo sia una sconfitta nettissima dell'ala frondista, dell'ala più dura del partito, e mi sembra a questo punto che la situazione si possa anche normalizzare. Per ieri non vedo più la possibilità di una scissione da parte dei moderati, siccome poi i moderati alla fine hanno vinto, quindi credo che in questo modo, pur registrando una sconfitta notevole, Berlusconi poi alla fine riuscirà a evitare una scissione all'interno del suo partito, io almeno credo questo. Berlusconi che continua comunque a restare tutto sommato centrale, perché il fatto stesso di non essersi sfilato dal sostegno alla maggioranza del governo Letta, dal suo punto di vista, ha anche questo significato. Continuerà secondo te a tenere in scacco un po' Letta? Cioè, quali prospettive vedi per questo governo, veramente prospettive rafforzate da questo passaggio di questa settimana, oppure un governo che comunque prima o poi dovrà affrontare il nodo della legge elettorale, e allora a quel punto ci sarà una precipitazione più o meno veloce verso le urne, secondo te? Ma io indubbiamente il governo Letta in questo modo si è rafforzato, perché comunque una settimana fa sembrava costretta a dimettersi, una dimissione quasi inevitabile, invece ora ha recuperato. Certo che a questo punto il governo Letta si è rafforzato, ha vinto la battaglia sul fronte appunto del PDL, però a questo punto non ha più alibi. Se fino ad ora, nei tre, quattro mesi di governo, poteva rinviare anche alcune decisioni impopolari, ma comunque decisioni importanti, proprio perché aveva una maggioranza poco stabile e quindi non riusciva a adottare quelle misure necessarie per cercare di consolidare la ripresa, ora il governo Letta non ha più alibi, quindi a questo punto deve rimboccarsi le maniche e deve fare. Quindi una vittoria sì, però una vittoria che deve essere subito messa all'incasso, nel senso che Letta ora deve agire. Proprio ieri ha parlato anche con Renzi, lo stesso Renzi ha detto che è pronto ad appoggiare il governo Letta nel caso lui diventasse segretario del PD, ecco, quindi a questo punto non ci sono più alibi veramente e il governo deve agire, perché ricordiamoci che questa ripresa passa ora, se noi non la prendiamo la perdiamo per sempre. Un'ultima cosa, in 30 secondi, stiamo per chiudere. Giancarlo Mazzucca, direttore del Giorno, c'è un'altra notizia di questa settimana, qualcosa che magari avete portato avanti sul vostro giornale? Sai che noi qua Si Può Fare cerchiamo anche di raccontare un po' dell'Italia che funziona, no? O qualcosa che non è andato, che ti ha colpito per raccontare questa settimana? Ma proprio oggi abbiamo una notizia, proprio nel momento in cui si parla tanto di necessità di trovare un'intesa sul fronte dell'immigrazione, superare tutte le barriere, ora che il ministro Chienge arriva in Lombardia, ancora si parla della necessità in alcuni centri della Lombardia di praticamente far adottare un esame, un piccolo esame di italiano per gli immigrati, per i figli immigrati che entrano nelle scuole italiane. Ecco, siamo ancora alle battaglie, cioè nonostante quello che succede a Lampedusa, sì, nonostante aprire gli occhi di fronte a un'emergenza assoluta, continuiamo a battagliare e a lottare tra chi è che favorevole gli immigrati e chi no. Ecco, io cioè tu dici tutto questo è una perdita di tempo, perché gli immigrati ci sono, cerchiamo di gestire la situazione, di arginare i flussi, ma non possiamo, però non possiamo arrivare sempre alla solita battaglia a braccio di ferro, immigrati sì, immigrati no. Ora ce l'abbiamo, cerchiamo di aiutare l'Europa a darci veramente una mano, in questo modo cerchiamo di imporci, ma però allo stesso tempo dobbiamo superare tutte le diatribe interne, perché veramente se no ci ritroviamo a 10-100 nuove Lampedusa. Va bene, grazie mille Giancarlo Mazzucca, buona giornata. Grazie. Grazie a voi, buona domenica. Grazie del giorno per essere stato con noi. Adesso facciamo un annuncio, l'annuncio è questo: 800 24 00 24, si può intervenire in diretta, ma non è questo l'annuncio. Si vincono 3 biglietti per la mostra Brain, il cervello, istruzioni per l'uso, una mostra che dal 18 ottobre al 13 aprile 2014 sarà al Museo di Storia Naturale di Milano. Basta rispondere a questa domanda, alla definizione di intelligenza, cioè chiamateci, dateci una definizione, la vostra definizione di intelligenza è quella più bella, quella che ci piace di più, quella più giusta, a giudizio insindacabile della redazione, vince 3 biglietti, saranno 3 persone che vinceranno 2 biglietti, quindi 6 biglietti per la mostra Brain. 800 24 00 24, abbiamo già qualche ascoltatore, cominciamo da Luigi che ci chiama da Alessandria, buongiorno. Buongiorno, senta, io sì, telefono per questo, perché vorrei almeno che qualcuno mi spiegasse qualcosa che non ho ancora capito, cioè si parla insistentemente e in modo ricorrente di abolizione del reato di clandestinità. Ora, io ho sentito anche il dibattito recente da Santoro e nessuno mi ha convinto, perché per esempio il sottosegretario Riccardi parlava di dare la possibilità di dichiarare asilo politico o meno, e quindi di verificare, non si sa dove, non si sa quando, questo tipo di status. Il problema che io vorrei sapere: in che modo è possibile sostituire e governare questo fenomeno che sta diventando drammatico per tutti? Anche perché mi risulta, sì, che in stati altrettanto democratici come l'Italia, mi riferisco agli Stati Uniti ad esempio, sì, questo tipo di reato, di definizione esista, e esistono delle misure deterrenti molto. Va bene, ma sembra chiaro quello che le dice Luigi. Cosa fare se togliamo il reato di clandestinità? Questo bisognerebbe chiederlo ai politici e insomma a chi fa le leggi. Comunque grazie anche a lei per il suo intervento. La vuol dare una definizione di intelligenza per partecipare al concorso per vincere i biglietti per la mostra Brain? Ma sì, per me l'intelligenza è la, sì, capacità di mettersi dal punto di vista degli altri. Bella, bravo, si fermi lì che questa è già buona. Si può fare cronache da un paese migliore. È tornato a trovarci Carlo Gabardini, buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti. Autore, attore, comico, non solo, di tante cose, fra l'altro interprete in un film che si chiamava Si può fare, quindi insomma quest'estate è stato con noi, è tornato a trovarci come stagista opinionista, poi vedremo se sarà confermato di nuovo oppure no. Esatto, intanto ringrazio tutti moltissimo, tutti gli ascoltatori che hanno scritto, che hanno telefonato chiedendo la mia riconferma, poi ovviamente ringrazio Radio 24 e oltretutto, soprattutto ringrazio Alessio Maurizio. Dovremmo per questa opportunità. Dovremmo trovare uno sponsor tra una marca di caffè per non per, solo per la sveglia, caffè, ma per la sveglia. Ah, perché... certo. E per pagarmi, tu dici, nel senso che io sono pagato, sì, con uno sponsor, ovviamente. Sì, ovviamente, è questo che stavo cercando di dire. Ma infatti sono molto contento, anche perché direi che ho vinto fatto uno stage in orari scomodi, no? Dopo aver fatto tutto agosto a Milano, adesso ho vinto la domenica mattina, quindi direi che ci sono buone e anzi ottime possibilità che io faccia anche il capodanno di Radio 24, oppure la che notte. Sarò qua. Io esatto. Ho detto alla presentazione del palinsesto di Radio 24, ci sono poche sfighe a lavorare in una radio che è un lavoro bellissimo. Uno è fare un programma la notte, ci sono quelli che lavorano la notte, no? E l'altro è fare un programma con Carlo Gabardini, hai detto? Esatto. No, farlo il weekend. E a noi, visto che la notte non lavoriamo, è toccato il weekend. È verissimo. Che dobbiamo fare? Ma quando l'ho detto a mia mamma, la risposta è stata ti sta bene. Quindi direi che è perfetto. Ah, pensavo ti stimo, quelle no, cose no, che si dicono. È molto così, contenta mia mamma, che... avendomi svegliato lei, diciamo, per tutte adesso le domeniche. Adesso facciamo i seri, perché certo, tu sei venuto qua, stagista, opinionista, adesso facciamo un po', vediamo un po' se questo stage te lo conquisti, Gabardino, oppure no. Qualche certo. notizia, devo noi vogliamo che tu ce la porti, qualcosa. Perché non è più lo stage da opinionista, è uno stage, diciamo, da giornalista. In erba. Sì. Molto tu bene. Su Twitter vai forte, eccetera, però vediamo un po'. Un po' di notizie. Sì. Allora, a parte che di tutte le notizie più belle, ovviamente le hai già date tu, però la notizia che mi ha incuriosito di più è che finalmente è nata la Camera della Rabbia. Ovvero, esiste un posto dove tu vai, paghi 35 euro, ti danno delle ginocchiere, un casco, una mazza da baseball, ti fanno entrare in una stanza di 4 metri per 3 che è tutta arredata con tavoli, tavolini, comodini, piatti, bicchieri, e con questa mazza da baseball per un'ora tu puoi fracassare tutto, diciamo, e sfogare la tua rabbia. Ah, bellissimo. Un'idea, direi, stupenda, sì. Un'idea americana, che però Christian Castagnoli, un 34enne, ha portato in un capannone. Cioè, di un'americanata, però scusa, 35 euro e poi come devono ricomprare tutti i mobili ogni volta, sì, secondo me ci vanno sotto. Infatti lui ci dice non sotto. Posso fare a meno di 35 euro, ma dirò di più, che la cosa bella è che c'è un upgrade, a un certo punto se vuoi puoi chiedere di avere la mazza di ferro, e a quel punto per frantumare meglio i mobili, perché con la mazza da baseball si spaccano i vetri. La vera cosa che io mi chiedo è, ma una volta che tu hai frantumato tutto, bicchieri, piatti, mobili, computer, poi... la raccolta differenziata di questi microframmenti chi la fa? Perché se ti tocca farla a te, a voi, altro che 35 euro. Dopo chiamano quelli dell'agenzia lì di Forlì e chissà quanto gli costa. Esattamente. Ma questa non era male, perché sono cose vere. Poi ho un'altra buona notizia, diciamo, ovvero è un'indagine che sarà presentata dopodomani al Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia. Ovvero è un'indagine di qualche tempo fa, fatta diciamo su sugli italiani e in media gli italiani pare che abbiano 9 rapporti sessuali al mese, e questo uno dice vabbè, alla fine dell'anno sono 108. Il problema è che tendenzialmente 1 su 4 di questi rapporti non dura più di 2 minuti, cioè 1 su 4 delle coppie italiane non ha rapporti più lunghi di 2 minuti. C'è anche la pubblicità Progresso sul si può dire c'è la pubblicità Progresso, e quindi bella scoperta. Questa però è vecchia, io che stavo l'ho sentita questa settimana, quindi siamo noi siamo anche un settimanale, siamo un settimanale, quindi assolutamente. Ma e poi, soprattutto questa è una buona notizia, perché basta che tu abbia un rapporto diciamo di 2 minuti e mezzo, 3, che puoi andare in giro a vantarti dicendo di essere assolutamente sopra la media. Giusto. Si fa presto, insomma. Certo, vabbè, si fa presto. Questa era facile, ce n'è qualcos'altro? Ma abbiamo una notizia dalla Cina, a Shenzhen, dove pare che abbiano messo una multa di 10 euro per chiunque, diciamo, pisci fuori dal vaso, anzi, pisci sul vaso, diciamo, macchi il vaso in qualche modo. E quindi c'è una coppia di... Danno una multa di quanto? Danno una multa di circa 10 euro. Ma come fanno a beccarti? Guardano prima e dopo, c'è una telecamera? Non lo so, non si sa come avvenga questa danno. Cosa. Però la danno. E quindi una coppia cinese ha deciso di commercializzare il raddrizza pipì. Ora, l'immagine schifo, non c'è, ma viene schifo, descritta come un semplice... E uno dice, cosa sarà mai? Chissà, sarà un'invenzione cinese pazzesca, incredibile. Raggi laser, un imbuto. È una cosa veramente orrenda. È una cosa orrenda, ma infatti. Chi è la fonte di questa notizia? Chi l'ha data? Perché non è che sarà tutto il fango minuto per minuto. È più o meno tutto il fango minuto per minuto, esattamente. Ed è nella categoria cineserie. Vabbè, è fantastico. E sicuramente deve essere vera. Poi? E poi abbiamo l'ultima notizia, che viene dalla Germania, dove un Patrick Ulmer, un imprenditore tedesco, ha aperto un'azienda specializzata nel creare bugie. Ovvero, se tu hai, per esempio, una mano praticamente, oppure hai addirittura dice che uno dei problemi maggiori è la bigamia, cioè le persone che hanno due mogli in due certo. paesi diversi, e quindi questa organizzazione, come non pensare a queste, cioè, questi poveracci che hanno due mogli, ma perché poi due mogli, ma basta cioè, esattamente, io la mia voglio bene, però. E loro ti diciamo ti procurano finte vacanze inesistenti, sì. gestioni di indirizzi postali inventati, finti messaggi telefonici. Per dire quanto sta andando bene questa azienda, il signor Patrick Ulmer ha già aperto una filiale in Austria. Hai capito? Finti messaggi telefonici. Telefonici, finte vacanze, c'è finto tutto. Tutto finto, direi. Io avevo scritto, mi ricordo, una puntata di Camera Caffè con una storia simile, dove c'era Paolo che andava all'estero e quindi, cioè, fingeva di andare all'estero, in realtà andava nella città di fianco per fare all'amore con un amante, e in quel caso si faceva procurare dei fiammiferi finti di questo albergo all'estero, dove lui ovviamente non era mai andato. E va bene, nella settimana... Ho fatto il mio lavoro? No. Benissimo, benissimo, a parte l'emozione, è la prima volta che do delle notizie. Io di solito commento con delle stupidate ma sono notizie altrui, vere, perché quella là del sesso, non crediate, ma c'era sul Corriere o Repubblica di qualche giorno fa, perché io l'ho letta, e fra l'altro sarà in un congresso di urologi la settimana prossima, quindi parliamo di cose vere. Tutte vere sono queste notizie, anche perché avevo un'altra notizia. Nasce l'ordine abruzzese dei cavalieri dei maccheroni alla chitarra, per dire, ed è una notizia vera. Vabbè, non so se lo richiamiamo la settimana prossima, Cavalieri, perché parte non si ferma più. Dicevo, io non so se sono a contare le notizie, non si ferma più. No, mi aggancio invece su quella cosa lì dell'azienda tedesca che fa le finte reputazioni, sì. Sfruttando anche le magie di internet, perché tra poco vi facciamo invece conoscere un'azienda italiana di giovanissimi che su internet va benissimo, è stata premiata qualche giorno fa come migliore startup. Dopo il giornale radio 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai in quest'onda, mai mi affonderà, gli squali non mi avrà. E loro sono bravi a surfare l'onda dei tempi, l'onda della crisi, a evitarla nella settimana in cui si prepara l'entrata in borsa di Twitter. Noi vi vogliamo parlare di un social network italiano, Kiwi, quello che connette chi frequenta gli stessi luoghi, che è stato tra l'altro poco tempo fa premiato con una menzione tra le giovani, insomma, aziende, tra le start-up italiane. Abbiamo convocato Mario Parteli, che è cofondatore di Kiwi. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per questi complimenti. Vabbè, insomma, chi è che vi dà il riconoscimento che avete ricevuto, da chi viene questa settimana? Il riconoscimento sostanzialmente viene dai giornalisti che erano presenti al TechCrunch, sì? Ci hanno rincontrato dopo 2 anni, perché la nostra storia inizia due anni fa. E sostanzialmente hanno recepito l'evoluzione che in questi 2 anni c'è stata. Bravi. Esatto. Ma quanti siete? Qual è l'età media là dentro da voi? L'età media è molto bassa, circa 22-23 anni. Io sono tra i più vecchi, diciamo, ho 24 anni. Sei vecchissimo! È una cosa scandalosa. Esatto. Guarda, sei già un compiede anni, fuori dall'azienda. Abbiamo 150 anni in 5. Impressionante. Beh, quella la media è 30, però vorrei dire. Esatto, scusa, ce l'ho messo in meno. In 6. Cosa fate? Di cosa si occupa questo social network per chi non lo conosce? Allora, io per esempio non lo conoscevo, devo ammetterlo. Adesso dovrei scaricarla, così la provi. Sicuramente. Io la scarico subito. Grandi. KiwiLoga sostanzialmente è un'applicazione gratuita per smartphone, attualmente disponibile per iPhone e Android, che ti permette di scoprire chi sono le persone intorno a te. Sostanzialmente le funzioni di base sono 2. La prima è quella che ti permette di vedere le persone vicine e quindi ti permette di visualizzare i profili delle persone connesse con cui è possibile chattare e restare in contatto con un click. La seconda funzione è quella del local wall, che è una bacheca geolocalizzata contenente tutti i messaggi e le foto postate in una determinata zona. Di conseguenza, se mi sposto, le persone cambiano ed anche i messaggi del local wall cambiano. Diciamo che con il passare del tempo abbiamo cominciato a pensare che questo modello fosse estendibile ad ulteriori contesti. Ma scusami, non ho capito una cosa, nel senso solamente quelli, i tuoi amici, cioè uno legge tutti i messaggi... Di tutte le persone connesse, diciamo, che twittano da Piazza del Duomo a Milano, uno può dire: io sono in Piazza del Duomo a Milano, voglio sapere tutti quelli che sono in Piazza del Duomo. Che utilizzano Kiwi. Certo. Ovviamente dovremo crescere e cercheremo di conquistarcela tutta la Piazza del Duomo. Certo, ovvio, ovvio. Bello. Da qui noi abbiamo esteso questo modello, ossia abbiamo pensato al fatto che nella vita a due passi spesso ti trovi una persona che avresti interesse a conoscere. Sì. Per il fatto che ha studiato con te o magari ti trovi in un altro paese, o conoscere magari gli stessi proprietari del brand della tua moto. Il problema sostanziale è connettersi con loro, perché spesso non sai che la persona che ha queste cose in comune con te si trova nella tua stessa città, per cui incontrarlo diventa veramente difficile. Soprattutto un sacco di volte uno non vuole incontrarlo. Non vuole incontrarlo, dipende dall'occasione. Esatto, nel senso che il problema è che bisogna aver voglia di dire sempre dove si è, se no il gioco non funziona, giusto? L'azienda tedesca di cui parlavi tu prima, Gabardini, quella che ti fa la finta reputazione, che ti fa le cose, le bugie, è l'esatto contrario di questa. Cioè, noi che siamo in cerca di buone notizie, visto, abbiamo trovato non solo l'azienda italiana, la startup che funziona, ma anche quella che ti connette, anzi dovremmo proporre all'azienda tedesca che nel pacchetto ti vende anche un finto profilo filo Kiwi, cioè che fantastico. Ti dice di essere in Piazza del Duomo quando tu in realtà stai ovviamente facendo l'amore in Piazza Le Baracca. E vi abbiamo procurato anche un aggancio commerciale, Mario Parte, il cofondatore di Kiwi. Beh, insomma, mi sembra il massimo. Grazie per essere stato con noi, per averci raccontato la vostra iniziativa. Grazie. Adesso tutti grazie a scaricarla, a mi raccomando, questa applicazione. Volevo farvi un piccolo esempio di quello che stiamo facendo ora. Sì? Immaginate, io studio in Bocconi e faccio parte dell'associazione Alumni. Vado a Singapore per cercare magari nuovi investitori e nuove opportunità di business, ma non conosco nessuno. Apro l'app Alumni Bocconi, scopro che nelle vicinanze ci sono 15 bocconiani, provo a mettermi in contatto con il primo di loro e scopro che lavora magari in un fondo di investimento. Ci chatto, vado ad un caffè con loro, mi presentano 5 persone. Da qui è molto più facile iniziare a muovermi. Se è così, allora è fantastico. Cioè, sì, noi stiamo ragionando in termini più generali. Un acceleratore di tutto. Mi piace molto l'esempio che fai, perché io avrei fatto assolutamente un esempio per cercare di andare a letto con qualcuno, diciamo. Invece tu giustamente dici ma per incontrare un fondo di investimento. Gabardini, questi sono ragazzi seri che hanno messo su un'impresa e quindi pensano ad altro, capito? Grazie mille, grazie a tutti quelli di Kiwi. Perché bisogna fare l'amore 9 volte al mese, come dice la statistica, quindi bisogna anche farcela, giusto? Dal kiwi al fritto misto. It's 2 times 3 is 6, 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah, we got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Basta gettare l'olio della frittura di casa nel lavandino o non so dov'è che lo buttate voi. Tutti facciamo più o meno così perché non si ricicla. Invece bisogna ridurre, riutilizzare e soprattutto riciclare. L'iniziativa, che coinvolgerà anche i cittadini, viene dalla Lombardia ed è la firma di un protocollo per il riutilizzo proprio di quest'olio. Noi abbiamo convocato con piacere l'assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Lombardia, Claudio Maria Terzi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Claudia Maria, scusi, ho detto Claudio, ma è Claudia naturalmente. Benvenuta. Sì, va bene. Noi siamo contenti che ha accettato l'invito nonostante sia domenica mattina, insomma parliamo di questa cosa qua, una bella iniziativa. Adesso purtroppo dobbiamo fermarci subito per il traffico, però torniamo e lei ci parlerà insomma di qual è la provincia coinvolta, Milano, Monza? Milano e Monza e Brianza, sono dei comuni a cavallo delle due province. Quindi milanesi e monzesi, svegliatevi perché questa cosa è interessante. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme all'assessore all'ambiente della Lombardia, Claudia Maria Terzi, per parlare proprio di questo protocollo. Di cosa si tratta? Riciclare l'olio da cucina come? Beh, allora, si è partiti da un presupposto. Tutti noi, bene o male, facciamo la frittura piuttosto che utilizziamo i sottoli, il tonno in scatola in olio d'oliva. E ovviamente non sappiamo mai cosa farne poi di questo benedetto olio, soprattutto dell'olio che è stato appunto che è stato fritto. Ora, generalmente viene buttato nel lavandino, come dicevate voi poc'anzi. Il problema è che buttarlo nel lavandino ha un costo non solo ambientale ma anche economico altissimo, perché depurare l'acqua contaminata da questo olio costa veramente tantissimo. E allora cosa abbiamo pensato? Regione Lombardia, la provincia di Milano, di Monza e Brianza, questi comuni e il CEM, che è il consorzio che sostanzialmente tratta i rifiuti in questi comuni, di recuperarlo, ma non recuperarlo solo ai fini del evitiamo di buttarlo direttamente nel lavandino, ma recuperarlo perché poi alla fine, attraverso un processo poi ovviamente di lavorazione, diventa biodiesel, quindi da qualcosa che è assolutamente deleterio e costosissimo per l'ambiente, diventerà qualcosa che non solo permetterà di risparmiare sulla depurazione delle acque, ma permetterà anche di fare del bene doppiamente all'ambiente, perché il biodiesel è ovviamente non è inquinante, e quindi insomma questa cosa ha tanti benefici. Come si ricava il biodiesel dall'olio e come si raccoglie poi concretamente l'olio riciclato per farlo convogliare? La raccolta è semplicissima, non so se lo facevano le vostre madri, le mie madri e mia nonna già lo facevano, cioè quando tu fai la frittura poi mettevano l'olio in una bottiglia, avendo cura che fosse ovviamente quantomeno raffreddato. Anche perché poi lo usava, mia mamma lo usa tipo per 2 anni di fila, giusto? Esatto. Il suo riciclo è già biodiesel, quello che usa mia mamma è già biodiesel, secondo me. Tu sei ridotto così, così giovane, Gabardini. Anche mia mamma quando ho spiegato, mi dice, ma io lo riutilizzo già. Sì, esatto. Ma dovrebbe. Mia mamma usa ancora quella del matrimonio, quindi. Comunque, prima o poi, quest'olio, a forza di utilizzarlo, devi buttarlo da qualche parte. Quindi invece di metterlo nella bottiglia sotto il lavandino, ti prendi una tanichetta che ti dà il consorzio, una bellissima tanichetta verde e gialla, e ci metti ogni volta che scoli il tonno da mettere nell'insalata, piuttosto che l'olio del fritto misto o delle patatine fritte del nipotino, e ce lo butti dentro, avendo cura, ribadisco, che sia freddo, lo butti dentro. Quando la tanichetta è piena, vai nella piazzola ecologica, nell'ecocentro, la svuoti in una tanica che è decisamente più grande, questa poi partirà, farà la sua strada, non troppo lunga, verrà rigenerata, c'è un processo di lavorazione particolare ma nemmeno troppo complicato, e poi alla fine diventa biodiesel, e il biodiesel finirà negli stessi mezzi che si utilizzano per la raccolta rifiuti, quindi è un viene usato poi per i mezzi per alimentare, che fanno in modo anche per risparmiare e per reinvestire qualcosa che proviene da un danno ambientale a favore dell'ambiente. Bello, così arriva il camion della spazzatura che in realtà è alimentato dai miei avanzi di frittura, ma esatto. È stupendo. Adesso però non vorrei rovinare questo clima di allegria, ma quanto tempo ci vorrà perché questa cosa diventi una cosa concreta, assessore? No, il progetto parte dall'inizio del 2014. Il progetto è già qualcosa di concreto, noi l'abbiamo presentato, partirà, faremo un anno di sperimentazione, e l'idea poi è che da 5 comuni inizia ad allargarsi appunto Macchia d'Olio il progetto. Quindi inizieremo ad andare a coinvolgere poi tutta un'altra serie di comuni. Ovviamente accanto a questo tipo di progetto c'è tutta una campagna di comunicazione che serve soprattutto attraverso i bambini, per far capire alle mamme, alle nonne, alle zie appunto come va trattato questo olio e quanto è importante intervenire su quello che è un gesto che facciamo quotidianamente, ma a cui magari diamo poca importanza ma che veramente ha un peso ambientale forte, insomma. Mi scusi, ma perché non verrà fatto il ritiro, come diciamo, dell'umido, come di tutte le altre cose, ma devo andare io con la tanichetta nella piazzola a cercare la tanica più grande e versarcela dentro? Beh, perché adesso sono coinvolti questi 5 comuni e sono solo la popolazione coinvolta sono 34.000 persone, sono 12.000 famiglie mal contate, insomma. Ovvio che può essere che dopo che questo tipo di progetto passa dall'essere un esperimento, una sperimentazione, a un progetto strutturato, si potrebbe pensare di fare una cosa del genere. No, nel senso che già c'è il ritiro, no, in casa di un sacco. Sì, quindi come mai questo dell'olio invece non è all'interno? Perché è sperimentale. Cioè, diciamo. Tu vuoi la vita comoda, Gabardini. Comoda, già devo mettere l'olio della scatoletta del tonno dentro in una bottiglia, per me è già molto scomodo, ma però è giustissimo farlo, ovviamente. Bravo. Però, no, però se dopo devo anche andare io con la tanichetta d'olio. Però, insomma, andare nell'ecocentro. Ora, questi sono comuni piccoli e quindi la possibilità è facile, di accedere all'ecocentro, certo, magari è un po' più comodo. Nelle grandi città bisognerà pensare forse l'ecocentro di Milano? Qualcosa di diverso. Dov'è l'ecocentro di Milano? L'ecocentro di Milano, dov'è? Dov'è? Non ho idea perché io sono bergamasca, ah, però le dico dove sono tutti gli ecocentri della Bergamasca. No, no, volevo sapere dove si andava a consegnarlo a Milano quest'olio. Per no, infatti, puntiamo sulla comunicazione, assessore, no, perché no, sennò... Ma, stupido, ma è il motivo per cui di solito i progetti, gli esperimenti, insomma, si fanno sui comuni che hanno dimensioni ridotte, perché ovviamente sì. Puoi intervenire e man mano che la cosa ovviamente si concretizza tu riesci a capire quali sono i punti di caduta e gli elementi di criticità. Uno certo. Di uno, per esempio, può essere questo, e il fatto di dire ogni quanto, per esempio, devo passare a ritirarlo, perché mica puoi farlo come l'umido che una volta a settimana o due volte a settimana ti passano a ritirarlo. Ah, certo. Cioè la frittura non te la fai tutti i giorni, spero, per il fegato di tutti noi. Chiamiamo noi, quindi quando faccio la frittura chiamo e dico guardi se può venire a ritirare l'olio che io ho fatto. Potrebbe, io ho fatto la frittura, venitemi a prendere l'olio, potrebbe essere una soluzione. Ma perfetto, perfetto. Penseremo. Grazie all'assessore Terzi, questa è una bella iniziativa, speriamo che poi vada avanti, oltre il progetto sperimentale diventi una cosa che dilaghi e che si arrivi anche a quello che dicevi tu, Gabardini. Perché ritiro. Casalingo. Perché hai detto una cosa giusta, nonostante l'abbia detto. E ti tu. Sei stupito, vedo. E infatti, mi sono un po' hai stupito. Fatto un po' la faccia. Ho sgranato gli occhi e ho detto: beh, in effetti è vero, andare con la tanichetta non è il massimo della comodità. Allora, abbiamo un sacco di sms sul concorso di oggi. Si vincono, lo ripeto, tre persone vincono due biglietti, quindi si va in coppia per la mostra Brain, e il cervello, amici? Istruzioni per l'uso. Va lì all'ingresso e c'è a Calappia subito qualcuno perfetto. Col secondo biglietto. Un altro single. È giusto. Un modo per fare amicizia. Vedi, al Museo di Storia Naturale dal 18 ottobre inizierà fino al 14 aprile del 2014. Ci sono anche gli ascoltatori che chiamano all'800 24 00 24 per partecipare al concorso e non solo, spero. Salvatore Dall'Ainate, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Salvatore? Buongiorno. Buongiorno. Sono in linea? È in linea. Ecco. Lei voleva intervenire sì. O partecipare al concorso o tutte e due le cose? Tutte e due le cose. Perfetto. Allora, partecipando al concorso volevo dire che la definizione migliore, a mio avviso, è la capacità di leggere tra le cose. Infatti la parola credo che derivi da intelligere. Mamma mia, lei però è andata a consultare qualcosa online o è andata no. A memoria? Giuro che no, guardi, sto lavorando. Lei ha studiato il latino a scuola? Sì. Oppure sì. C'ha Google? Bravo. No, no, ha detto... no, no, studiato il latino. Ecco. Va bene, questo per quanto riguarda il concorso, ce la segniamo Salvatore, vuoi dire qualcosa anche sugli argomenti di oggi? Allora, per quello che riguarda l'olio, io credo che sia un'idea interessantissima, la solita capacità italiana di tirar fuori soluzioni del genere, sì? Però credo che abbia un difetto enorme, credo che se non fanno un'attività di restituzione, insomma dovrebbero a mio avviso pagare anche 2 centesimi, 5 centesimi. Incentivi, la parola magica, ho esatto, capito. Bisogna incentivare. Ha ragione. Perché uno dice, io ti sto dando la roba con cui tu ci fai della benzina esatto. E poi io vado a comprare la benzina, io la pago, tu perché non la paghi? No, soprattutto esatto. Per dare un motivo per fare tutto questo sforzo. Grazie Salvatore, esatto. È chiaro quello che lei sta dicendo. Dario da Ivrea, prego, buongiorno. Dario. Ciao, buongiorno a tutti. Eccolo qua, prego. Buongiorno. Ecco, allora, io ho pensato che l'intelligenza è... possa essere la capacità di mettere in connessione elementi diversi tra di loro. Va bene Dario, poi voleva intervenire anche su qualcos'altro o solo per la definizione per il concorso? Per quanto riguarda il riciclo, comunque ad esempio fare l'immondizia differenziata, no? Allora io dico, ma come è possibile sì? Fare una cosa del genere quando di anno in anno aumenta sempre di più e si chiede al cittadino di essere sempre più attivo in questo senso, nel senso che dobbiamo mettere la plastica, dobbiamo mettere la carta, dobbiamo mettere il vetro. Ma okay. Quando dice aumenta sempre di più, nel senso dice che costa sempre di più? Il costo è sempre più alto. E, ma allora, e noi dobbiamo fare sempre di più noi e pagare sempre di più, questo allora è il problema. Che produce? Produce comunque un scollamento tra la volontà civica, l'impegno e il fatto che un impegno comunque ha necessità di essere comunque riconosciuto. Va bene, grazie Dario, grazie mille. Abbiamo grazie. Anche altri ascoltatori, tra poco li sentiremo, direi, sì, che restino in linea, che continuino a chiamare all'800 24 00 24. Adesso, a proposito di rifiuti, un'iniziativa di questa settimana. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because three, it's a magic number. Allora, io saluto Massimo Piras, buongiorno. Buongiorno a voi. Primo firmatario della proposta di campagna Rifiuti Zero, una campagna che è approdata questa settimana a Cosa. Hanno consegnato alla Camera, niente proprio di meno che tra le mani del Presidente della Camera, Laura Boldrini, 80.000 firme raccolte a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare. Tanto complimenti, perché insomma ogni volta che qualcuno si rimbocca le maniche per una cosa giusta ci mette del tempo. Chi siete e dove andate, Piras? Chi è il comitato che raccoglie le firme e qual è l'obiettivo? Allora, il percorso è partito un anno fa, ovviamente questo è l'atto conclusivo. Diciamo che è partita qui da noi dal Lazio, dove abbiamo una situazione particolarmente esplosiva. Roma e Lazio sono particolarmente da 3 anni in emergenza, quindi Zero Waste Lazio in qualche modo ha lanciato l'anno scorso una bozza a cui ha aderito tutta la struttura della rete nazionale Rifiuti Zero, che già in qualche modo riassume i comitati che hanno aperto le vertenze su inceneritori, su discariche in tutta Italia, ma si è estesa notevolmente oltre anche a comitati sui beni comuni, sull'acqua pubblica. Cioè un punto, diciamo, di partenza, mi scusi Piras, è quello di dire dove c'è un inceneritore contestato, e si contesta perché si dice si potrebbe, invece che bruciare rifiuti, è il solito vecchio questione, no? Riciclare di più, ridurre, un po' come hanno fatto a Reggio Emilia, dove l'inceneritore l'hanno chiuso perché stanno andando verso rifiuti zero. Questo è uno dei punti di partenza di questa campagna. Assolutamente, cioè, strategia rifiuti zero per noi è il punto di partenza, che è stato tra l'altro in qualche modo lo start di questa iniziativa, la risoluzione europea dell'anno scorso. È un fatto, insomma, cosa prevede questa risoluzione europea? Ecco, merita qualche parola. L'anno scorso finalmente l'Europa, cioè il Parlamento europeo, ha votato una risoluzione complessa con molti punti, di cui al 33° punto dice che al 2020 si dovrà procedere alla chiusura di discariche e inceneritori, anche se gradualmente, ma entro il 2020 andranno chiusi. Noi, cioè, tutti gli inceneritori andranno chiusi? E cosa si farà? E che cosa succederà con i rifiuti, quindi? Questo ce lo spiegano loro con la loro petizione. Cosa prevede la petizione Rifiuti Zero? Noi appunto da 10 anni stiamo lanciando la campagna Rifiuti Zero con Paul Connett in tutto il mondo, che pone al 2020 l'obiettivo di cambiare l'economia dei vari paesi. Ma come, scusi Piras, perché cambiare l'economia? Eliminando quella che oggi è una tecnologia di distruzione di materiali, passando al recupero dei materiali, e la prima azione da fare è la raccolta porta a porta. Se abbiamo materiali pulizi, possiamo poi riciclare. Quindi la legge è uno dei punti che impone la raccolta porta a porta per legge in tutta Italia. Cioè, quindi nei posti dove, perché siccome ci sono delle città, delle piccoli centri, insomma per ora credo piccoli, ma non solo forse, dove si sta facendo il porta a porta, questo alza di molto, naturalmente, è chiaro, perché uno non deve fare la fatica di andare a disperdere. Cioè, e questo è un come punto. Dicevamo prima sull'olio. Il porta a porta, dov'è che per esempio in Italia viene fatto e che risultati ha dato, Piras? Ma il porta a porta è fatto oggi in circa 200 comuni, che sono comuni anche importanti come Salerno, Novara, anche a Roma è partito, anche se limitatamente, anche a Napoli è partito, anche se limitatamente. E dove funziona bene? Che risultati ha dato? Ha dato risultati che si passa immediatamente a percentuali superiori al 60%, che arrivano come a Capannori anche all'85%, ma diciamo che si arriva subito al risultato di legge. Altri punti su questa legge che vogliamo sottolineare prima di... Noi il primo punto che poniamo appunto è, da una parte, l'azzerare, perché noi stiamo facendo una normativa a modifica della legge nazionale, che è la 152, che prevede già la raccolta differenziata, ma prevede anche l'incenerimento. Quindi se tra 7 anni dobbiamo chiudere gli inceneritori, non possiamo avviarne di nuovi, perché è un ciclo che prevede 15 o 20 anni di ammortamento. Quindi la moratoria su nuovi inceneritori, togliere gli incentivi, perché oggi questa industria si regge solo sull'incentivazione pubblica, che paga l'energia 3 volte, come se fosse da fotovoltaico, per capirsi, e non è così, perché cioè l'energia prodotta attraverso gli inceneritori diciamo è incentivata troppo, secondo voi, e quindi andrebbero tolti questi incentivi? Sì, no, incentiva l'industria di distruzione, che non ci possiamo più permettere di distruggere. L'Europa adesso ce l'ha detto, noi dobbiamo andare al recupero di materie, perché non abbiamo materie prime, le importiamo continuamente. Il recupero come si fa? partendo dal discorso di recuperarli in modo pulito, quindi non col sistema stradale dei cassonetti che ha fatto il suo tempo, e andando poi a processi di selezione e di trattamento a freddo, quindi parliamo di compostaggio, parliamo di industria del riciclo, parliamo di 500.000 posti di lavoro a regime che potrebbero in qualche modo crearsi in modo stabile. Corbezzoli, ma senta, visto che è un esperto di rifiuti, le volevo fare una domanda di un nostro ascoltatore che ci scrive un SMS dicendo: dove posso portare un sacchetto di tappi di sughero? Tutto quello che non viene raccolto oggi con il porta a porta si può conferire alle isole ecologiche che fanno parte del sistema. Sperando che poi non ammucchino tutto da qualche... Le isole ecologiche... I tappi di sughero vengono assolutamente riciclati, è una materia importantissima, il sughero, e all'ultima fiera del vino di Verona c'era un'azienda che proprio promuoveva questa cosa qua, perché è importante, no? No, però mi piaceva così l'ascoltatore che dice, tra l'altro che c'ha un sacchetto di tappi di sughero, deve aver fatto un weekend stupendo. Beato lui. Grazie Massimo Piras. Grazie della mille. Campagna Rifiuti Zero, si deve ancora firmare, si può ancora firmare, cosa si può fare? No, la campagna diciamo che è chiusa. Conclusa, abbiamo consegnato altre 6.000 firme l'altro ieri. Quindi adesso a chi tocca la parola? Al Parlamento. Al Parlamento, e quindi faremo gli incontri con le Camere, con le commissioni, per avere da questo punto perché, di vista la possibilità. Esatto, mi spieghi un attimo tecnicamente in 30 secondi per chiudere. Voi avete presentato queste firme, la legge di iniziativa popolare è prevista dal nostro ordinamento, quindi adesso il Parlamento deve fare la sua, deve incamerare questo disegno di legge. Sì, siccome il deposito è stato fatto alla Camera, quindi la Commissione Ambiente della Camera sarà la prima che analizzerà questa cosa, e stiamo incontrando... Fiducia da 0 a 100 in questa cosa da parte sua? Ma ripeto, non è un'idea nostra, è una cosa che già l'Europa ci impone con una votazione già precisa. Beh, ma non sarebbe la prima volta che non attuiamo le normative, quindi insomma fiducia per ora poca. Ormai è inevitabile. Va bene, quindi presto o tardi ci scontreremo con questa cosa, chissà se la vostra iniziativa diciamo servirà da pungolo. Grazie Piras, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Direi che dagli SMS e dai messaggi la raccolta dell'olio in altri posti viene già fatta, perché c'è un tweet si può fare 24 che dice: come olio usato qui in Friuli sono anni che si raccoglie in ecopiazzola o in raccoglitori. Facile in Friuli, nel nord, quasi Scandinavia, lì le cose le fanno. Vedi che già in Lombardia ci stiamo arrivando adesso, quindi insomma. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. E avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Gaetano dalla provincia di Vicenza ci ha chiamato, buongiorno, per intervenire e forse per dare anche la definizione di intelligenza per vincere i biglietti della mostra Brain. Sì, allora secondo me l'intelligenza è la capacità che ci fa trovare prima degli altri, da un mucchio di chiave, quella giusta per aprire una porta chiusa, è una metafora. Ovviamente. Aspetti, la ripeta questa perché è bella, è la capacità che ci fa trovare prima degli altri, da un mucchio di chiavi, quella giusta per aprire una porta chiusa. Bella, va bene, lei ha usato una metafora che però dice delle cose. Va bene, voleva intervenire anche su qualche argomento o voleva solo partecipare al concorso? Sì, volevo dire che per quanto riguarda diciamo lo smaltimento dell'olio, la cosa migliore sarebbe quella di comportarsi come fanno i vegetariani, no? Cioè usare una dieta vegetariana, in questo modo l'olio fritto non viene usato. Cioè le vuoi tagliare alla radice il problema? Come non viene? Le melanzane fritte sono vegetariane. Come me le fa le melanzane alla parmigiana senza olio? No. Il vegetariano di solito la verdura la fa alla griglia, quasi mai fritta. No. Mi scusi, lei conosce solo vegetariani molto tristi. Il vegetariano purtroppo, non è triste, i vegetariani mangiano benissimo. Devo essere d'accordo con Gabardini, e questo mi dispiace un po', però mi scusi, ma perché uno deve mangiare solo verdure alla griglia o crude? No, si possono la fare mozzarella, anche delle belle caponate. Esatto, la mozzarella in carrozza, per dire, ecco. Cioè la mozzarella non è proprio vegetariana, però sì, vabbè, Gaetano, insomma, lei dice eliminiamo l'olio alla radice, però insomma questo forse è un po' troppo, direi, come dire, draconiana come ricetta. Vabbè, anche perché l'oliva non è un animale. No, risolverebbe anche la questione dei rifiuti, cioè avremmo rifiuti zero, perché il vegetariano di solito ciò che compra lo consuma per intero. Vabbè, ma lei ha una visione tutta particolare del vegetariano, Gaetano. Esatto, le bucce d'arancio, scusi, in che senso che non gustano niente? Ma lei è vegetariano, Gaetano, mi scusi, Gaetano. I Gaetano, Gaetano, mi scusi, lei è vegetariano? Sì, sono vegetariano. E lei quindi i vegetariani fa queste cose? Non fanno la cacca, per esempio, capiamo questa cosa. Appunto, neanche la cacca fanno? Appunto, in questo modo l'olio viene, viene successivamente, come dire, smaltito per via naturale. Vabbè, Gaetano, vabbè, vabbè. Se tutti fossero come lei non avremmo il problema dei rifiuti. Grazie. Arrivederci. La cattedrale di Palermo, fuori un caldo micidiale, sul suo viso di bambino, sostenuto dal cerone, ammazzato dal cerone, gira sempre senza borsa. Intanto io devo dire che tra gli ascoltatori che hanno chiamato fino ad ora il mio preferito è Luigi, quello che dice che l'intelligenza è mettersi nel punto di vista degli altri. Giorgio De Luca in redazione invece ha apprezzato Gaetano, che diceva trovare prima degli altri le chiavi per aprire una porta chiusa, perché c'è almeno una metafora così un po' segreta. Tu, Gabardini, hai trovato qualcosa? Ma io voto anche Gaetano, che è il nostro amico vegetariano, che mi sembra che è bene che vada alla mostra. Quindi Gaetano, sì, mi sa che è il momento. Ma, diciamo, è un invito questo qui, più no, che perché un... mi chiedo anche, per esempio, il biglietto della mostra lui non lo butterà via, perché è vegetariano. I vegetariani mangia. Mangiano anche i biglietti delle mostre, perché non hanno, sono a rifiuto zero i vegetariani. Adesso andiamo a Palermo, vediamo se hanno una soluzione anche a questo. Da Palermo, che invece abbiamo convocato nella figura di Francesco Giambrone, assessore alla cultura del Comune di Palermo. Intanto buongiorno. Buongiorno, buona buongiorno. Domenica, buongiorno. Perché vogliamo parlare con voi della candidatura alla Capitale Europea della Cultura 2019. Stiamo facendo un viaggio tra le città italiane candidate, perché è bello riscoprirle. Sappiamo solo che nel 2019 tocca all'Italia. Sappiamo che c'è una lista lunga di città, noi abbiamo sentito alcune, Bergamo, Pesaro, Ravenna, adesso Palermo, e che adesso qual è il passaggio? Cioè, ci sarà una short list tra poco, no? Che uscirà. Giambrone. Sì, nell'arco dei prossimi mesi, a quanto pare entro dicembre, le varie candidature saranno vagliate dalla giuria internazionale e poi sì. Presto, io credo proprio entro dicembre, ci sarà la shortlist. A quel punto le città che passeranno nella shortlist avranno 9 mesi di tempo per approfondire il dossier, anche con un monitoraggio da parte di questa giuria, e poi sapremo quella che è candidata. Ma quante ne rimangono? Quante saranno in questa shortlist? Ah, questo non è ancora stato dato, non è ancora stato detto. È lasciato all'autonomia della giuria internazionale. La cosa bella è quella che dicevate voi, cioè che alla fine sono 21 le città che si sono candidate. Sì. E se queste 21, quindi un modo per guardare a come 21 una per regione. In Sicilia c'è anche Siracusa e forse anche Erice. Ah, quindi alcune regioni non hanno candidato nessuna città, diciamo. Qualcuno non si è preparato. Altre più di una, ma la cosa bella è che alla fine 21 città grandi e piccole di questo paese si stanno interrogando sul loro futuro, su qual è l'idea di futuro per la città, e se alla fine qualunque sia prescelta, davvero, ma tutte e 21, almeno in parte, realizzano il progetto che hanno pensato, nel 2019 questo paese è migliore. Ah, speriamo. Senta, però ci dica una cosa, scusi, Palermo, no? Partiamo con un ottimismo. Cosa, vabbè, questo è sempre. Su cosa punta? Qual è la tu di Palermo? Cioè, io sono un berlinese, uno di Dublino, città europea della cultura, Palermo. Perché? Per una serie di ragioni, però ne metto alcune in maggiore evidenza. Ad un turista direi soprattutto perché Palermo con questo progetto riscopre il mare, il rapporto con il mare, e riscopre che la è una città europea del mare, allora non della cultura, però sì, del mare, ma il mare è cultura, e riscopre che ha 9 porti, una città con 9 porti, una città che ha certo un interesse non banale. 9 contaminazioni, intrecci. Sì, 9 borgate marinare, 9 identità di città, e questo è il primo punto, la riscoperta del rapporto col mare, che è importante intanto per Palermo, perché Palermo è una città che ha perduto nel tempo il rapporto col mare, ha voltato le spalle al mare, l'ha usato come una discarica, proprio una discarica in senso stretto, molte dei 27 chilometri di di waterfront della città sono inquinati e non praticabili e saranno praticabili nel 2019. Ma è importante anche naturalmente per i turisti, anche per la collocazione geografica di Palermo. L'altro elemento è che Palermo è certamente una terra di confine, di faglie tra il Medio Oriente e la Mitteleuropa, e questo sta proprio dentro il grande senso di capitale europea della cultura, questo poter essere luogo di confronto, luogo di incontro, luogo di discussione su due temi principali: i diritti. Velocemente, perché siamo quasi a ridosso del traffico. I diritti e la pace. Sì. Non è riuscita la politica a trovare gli strumenti per portare la pace nel mondo. Proviamo a vedere se ci riesce la cultura a portare la pace nel mondo. E il nostro progetto è tutto incentrato sui diritti e sulla pace. Senta Giambrone, una cosa in 30 secondi però, se possibile. Voi cosa vi aspettate da questa cosa qua? Perché lei ha detto, saremo una città migliore sicuramente, anche se non vinceremo noi. Però si sa che i grandi eventi, le grandi cose, a volte costano di più di quello che rendono. Ci aspettiamo esattamente il contrario, perché non investiamo sui grandi eventi. C'è un budget di 377 milioni che per l'85% è in investimenti strutturali sulla città. Quindi ci aspettiamo una città profondamente cambiata dal punto di vista strutturale, quindi definitivo, permanente, non effimero. La porta dell'effimero è solo il 15%. Vediamo se convincerete anche i palermitani a seguirvi su questa strada. Credo di sì, perché quando ci sono questi slanci in genere c'è anche consenso. Grazie assessore. Grazie a voi. Buona giornata, saluti da Milano a Palermo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Via con due ascoltatori veloci, 30 secondi, un minuto l'uno massimo, perché dobbiamo chiudere. Franca da Modena. Franca, buongiorno. Presente. Eccola qua. Lei sul concorso voleva intervenire, definizione di intelligenza? Ecco, allora, secondo me, per dirlo in una parola sola, è il contrario della superficialità, cioè arrivare al punto delle cose e togliendo pregiudizi, banalità, luoghi comuni. Ecco, per me. Va bene, il contrario della superficialità è una definizione, va benissimo. Franca, ci salutiamo qua, andiamo a Giuditta che ci chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno. Secondo me l'intelligenza è un po' la curiosità di farsi delle domande su quello che c'è intorno a noi, su quello che è, e la capacità di rispondere al maggior numero di queste domande. Va bene, anche Giuditta, grazie, la ringraziamo per il suo intervento. Adesso poi dobbiamo dire una cosa che sarà daremo una, come si dice, un responso, un verdetto. Ma settimana prossima? Insindacabile, no. Adesso dobbiamo farlo. Adesso dobbiamo darlo, adesso. Va bene. Abbiamo già votato più o meno, i giurati si sono già riuniti, siamo già quasi sicuri. Lo diamo adesso o diamo settimana prossima? De Luca, che facciamo? Io direi che possiamo dirlo anche adesso. Sì, sì, sì, sì. E due li abbiamo già citati, manca il terzo. Adesso continuiamo a parlare per 30 secondi, no, per 30 secondi, per 2 minuti ancora di cultura. Vabbè, un inno d'Italia particolare però. Particolare perché eseguito dai nostri amici Guido Pontini e Miriam Farina, che sono quelli dell'MG Duo. Buongiorno Guido e Miriam. Buongiorno. Ben ritrovati. Sono i nostri eroi dell'orchestra dei precari. Sono veramente degli eroi. Guido? Sì. Lo dico così perché ormai ci siamo già conosciuti altre volte. Voi il 12 ottobre, se non sbaglio, esordite a Parma. Con cosa? Con un'orchestra fatta di precari. Sì, praticamente abbiamo avuto un'idea che è unica nel suo genere, specialmente in Italia, quella di fare un'orchestra che sia rivolta ai giovani talenti dai 18 ai 30 anni, e praticamente facendo partire un progetto che vuole diventare stabile attraverso un metodo di crowdfunding, perché la Imaging Orchestra è il primo ensemble italiano finanziato mediante crowdfunding tramite la piattaforma Ulule. e siamo appunto riusciti in questa impresa iniziale, sì, di far partire il progetto in un tempo tra l'altro dove tutte le orchestre chiudono, e quindi abbiamo il debutto il 12 ottobre. Ma quindi diciamo siete finanziati da singoli cittadini, ognuno che ci mette una piccola quota perché ha il piacere di ascoltarvi, giusto? Sì, diciamo che appunto questo è il metodo, c'è cioè una sorta di tanti piccoli mecenati. Sì, che... sì, c'è un sito apposta che fa questa cosa, sì, giusto, che fa il crowdfunding. Sì, perfetto. Ragazzi, com'è l'orchestra? Quanti siete? 18, no, se non sbaglio. Sì, sì, magari adesso spiega Miriam. Certo, facciamo parlare anche Miriam, perché questa cosa nasce dal vostro duo, poi si allarga. A quanti elementi adesso è giunta l'orchestra? Adesso, compresi noi due, siamo 18. E per il concerto invece del 16 sì, novembre, che avverrà a Reggio con la band norvegese gli Ulver, sì, saremo 21. Ah però, benissimo. Ma gli altri dell'orchestra chi sono? Da dove vengono? Dunque, vengono sempre da tutta Italia, perché noi comunque ci muoviamo con selezioni tramite il web e qualsiasi ragazzo può accedere alla nostra orchestra tramite una selezione inviando sul nostro sito, alla nostra email, il curriculum vitae e una registrazione di lui che si esibisce, comunque una registrazione recente. Cosa farete nel concerto d'esordio? Avete già in mente? Sì, sì, suoneremo un brano che è stato composto ad hoc per la nostra formazione, sì, dal maestro Luca Tessadrelli. Si chiama Cantus Maraudo, musica per Miriam e Guido, ed è un concerto della durata di circa 30 minuti. Va bene, c'è ancora posto per i biglietti o siete sì, già sì, tutto esaurito? No, l'ingresso è libero. Ah, l'ingresso è libero, perfetto, perfetto. Quindi appuntamento dove, come, perché, ricordiamolo velocemente. Appuntamento il 12 ottobre all'Auditorium del Carmine di Parma, presso il Conservatorio. A che ora? Alle 18. Perfetto. Grazie Guido e Miriam, l'Orchestra dei Precari da Parma. Questa è l'iniziativa. Adesso è arrivato il momento di dare il verdetto del concorso. Chi vince? C'è il notaio. A testa, due biglietti, no, senza notaio, perché a giudizio insindacabile nostro, per la mostra Brain, che inizierà a ottobre. Adesso non mi ricordo più la data esatta, mi pare dal 18, dal 18 ottobre. Vincono Luigi, che ha detto l'intelligenza è mettersi nel punto di vista degli altri. Poi Gaetano, che ha detto è trovare le chiavi per aprire le porte chiuse prima degli altri, con questa sì, metafora, è Franca, che dice che l'intelligenza è il contrario della superficialità. Li contatteremo e gli regaleremo i biglietti. Grazie ad Andrea Piana e Giorgio De Luca che hanno scritto assieme a me il programma. Grazie a Carlo Gabardini, che ritroviamo domenica prossima. Grazie a voi. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Anche da me, Alessio Maurizio, un saluto. Buona domenica, a sabato prossimo. Buongiorno, mi chiamo Gianfranco. La mia ricetta per un'Italia migliore, anche se senz'altro utopistica, sarebbe questa. È possibile studiare o valutare se mediante l'impiego della forza umana è possibile produrre energia elettrica? Mi spiego, oggi abbiamo un sistema produttivo che anche in fase di sviluppo non crea occupazione. Abbiamo tantissimi disoccupati, abbiamo persone inoccupate, abbiamo situazioni anche di carceri piene, di persone assolutamente non occupate che creano un costo alla collettività. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì!